Cellulite e Celluloide, la più importante trasmissione, rubrica di cinema, di serie TV, di game, di che altro? Di costume e società. Costume e società, cibo e cultura del mondo. Lo sapevi che la Sony vuole brevettare la tecnica d'animazione di Spider-Man? Ah, bravi, bravi, è molto bella infatti. Non lo sapevi tu? Non lo sapevo, vedi, si impara sempre qualcosa. Ma perché il film che ti ho consigliato ieri... Dovete sapere che a me mi arrivano questi consigli via WhatsApp allucinanti, che io non so da dove, quali cataloghi tu tiri fuori. Perché io sono un grande conoscitore del cinema. In certi momenti vieni folgorato dalla tua memoria storica. A me Gianluigi Rondi mi fa un baffo. Allora, parliamo di cinema. Vogliamo parlare prima delle ultime uscite? Allora, io ho visto Natale a 5 stelle. Ti visto ti è piaciuto? 5 minuti. 5 minuti e ti sono bastati? Un altro po' muoro. Vasquez, un altro po' muoro. Cioè, una cosa. Io te l'avevo detto. Te l'avevo detto. Ma. Cioè. Come dire? Non ho parole. Cioè, è una schifezza, sì, ma. Sì, ma è un film che suona. Ma è un suicidio. Cioè. Sì, sì, è terribile. Una cosa. Ma girato male. Recitato, sai chi l'unico che recita bene chi è? Cosa, ma cazzo? Dai, lo sappiamo tutti. Ma scusa, dai. Il grandissimo. Lui il più forte di tutti, no? Come si chiama? Aspetta che me lo ricordo. È questo che rende questa trasmissione la migliore al mondo. Il mistero. Sì, sì. Dai, come? Ma dai, lo sai! Lo sai, lo sanno anche i sassi, figlio mio. Ricky Memphis. Ah, Ricky Memphis. L'unico che ce l'ho sulla punta della lingua. Ma ti capita mai a te? Tutti i giorni. Perché io dico, boh, starò invecchiando? No, ci sono queste cose che non ricordo. Da quando ho 18 anni a me mi capita. Possibile che non ricordo le cose? E invece, porca miseria. Cioè, secondo me sto invecchiando veramente. Cioè, questo è. Il buono di me è che io non invecchierò mai perché sono sempre stato così. Raggiunge, cioè, semplicemente il mio corpo raggiungerà la mia età mentale che ho da quando ho 18 da anni. Da quando eri bambino. Esatto. Vabbè, insomma, vogliamo parlare prima dei film che usciranno. No, ci sta perché, scusami. Qui... Oppure la classifica. No, allora, un secondo. Sì. Andiamo per cosa. Cioè, perché, carità. No, qui c'è un pubblico che attende, che sta sulla punta del sedile proprio. Allora. Sì. Oh. Tu hai parlato di Natale a 5 stelle. Sì. E quando parli di Natale a 5 stelle, bisogna per forza parlare di Amici come prima. Che noi non ne abbiamo parlato perché settimana scorsa, per una serie di eventi incredibili, non siamo andati in onda. Ah, è vero, avevamo la festa, avevamo il festone. Ma tu l'hai Amici visto? Come... L'ho visto, è uscito ieri. Amici come... Quindi è nelle sale italiane. Ah. E la cosa incredibile è che è un buon film. Ma vattene. È un buon film. Ma che cavolo dici? Allora. Ma non è vero, t'hanno pagato. Allora, ma t'hanno pagato, fai schifo, no, dai. Il punto. È vergognosa questa cosa, t'hanno è pagato. Che il fatto che sia un buon film è il loro problema. E fanno di tutto per convincere che non lo sia. Cioè, hai visto com'è la locandina? Non la ricordo, però insomma... La locandina è una roba super photoshoppata... con un albero di Natale dietro, della neve, per far pensare ai vecchi film di Natale. Ma il film è ambientato in primavera, non c'è il Natale. Non c'entra niente. Ma come non c'è il Natale? Le scene che si sono viste o i trailer che girano sono totalmente non rappresentativi. Ma cioè, davvero? Sì, sì, stanno convincendo tutti che sia un vecchio cinepanettone, ma in realtà non è così. E che è, scusa? È molto migliore. Allora, il film più vicino... anche se non è che proprio gli è vicinissimo. Via col vento. Ben Hur. Amici, sì, ciao, scusami. Quasi amici. È il film più vicino a questo. Ma quasi qua. Amici quello francese? Sì. Quel capolavoro di film. Ah, non è la stessa cosa, anche perché Christian De Sica è travestito, lì non c'è un travestito, però insomma, se proprio uno dice, sai, che ti ricorda... Travestito che è da donna? Sì. Christian De Sica si traveste da donna? Allora, la trama è questa. Christian De Sica è il direttore di un importantissimo hotel, uomo di grande cultura, cose. La figlia del proprietario, però, vende ai cinesi. Quindi lui si trova senza lavoro da un giorno all'altro. Viene a sapere, per una serie di intrighi, che il proprietario, quello vero... la figlia cerca una badante per il proprietario, che è Massimo Boldi, che sta sulla sedia a rotelle. Però deve essere cinese. Donna. I vecchi proprietari, non so come dire, quelli che stanno vendendo. Ho capito. Però deve essere donna. E lui, siccome questo qui è l'unico lavoro che può fare e che paga benissimo, loro sono ricchissimi, quindi pagano un sacco di soldi. Lui si traveste da donna per fare questo lavoro. E questo porterà dei problemi con la sua famiglia. Esatto. Guarda. Lo dico. Allora, cose che lo rendono... Allora, poi non è capolavoro, però è un buon film. Cose che lo rendono un buon film. Primo, questa cosa che Massimo Secondo Boldi... me tu ti sei sorpreso che... e no, dici che è bello perché il film pensavi fosse una schifezza totale. È un buon film. Allora, primo, Massimo Boldi in quella parte, cioè nella parte del vecchio odioso su questa serie ingestibile, è fantastico. Cioè hanno trovato una collocazione per l'umorismo di Massimo Boldi che funziona moltissimo. Lui fa quello che faceva sempre, però messo lì, messo come cattivo del film sostanzialmente, l'impedimento di Christian De Sica è fortissimo. Il film è diretto bene, perché è diretto dal figlio di Christian De Sica, anche se c'è scritto... Ah, non da Christian De Sica. No, ma in realtà, cioè, la cosa è regia di Christian De Sica, ma in realtà l'ha fatto il figlio, lo ammette lui tranquillamente, lo dice, no, ma l'ha diretto mio figlio. Vabbè, perché ha messo il mio figlio? Non lo so, però me l'ha detto lui a me, in un'intervista... Ma sono tossici, cazzo. Per cui è diretto bene. Ma gli ha chiesto perché? Scusi, perché? Dice, mio figlio mi ha fatto questo favore. La mette così, capito? Ah, vabbè. È diretto bene. È diretto con criterio. Mettiamola così. Adesso non è che è un cavolo di regia. Però è diretto con criterio. Ci sono, ti dirò pure, due o tre momenti che mi hanno fatto proprio ridere. Ho delle trovate comiche che fanno ridere. C'è poco da dire. Ma dai. Guarda, è un Boldi e De Sica non facevano ridere più dall'85. È un buon film. Non ci crede nessuno. Non solo, tra l'altro, come tutti i film di Christian De Sica, Christian De Sica avrà fatto 9 film almeno da regista. Anche se questo non l'ha diretto. Però insomma, come tutti i film che lui ha fatto da regista, è un film che ha molto a che vedere con la sessualità. Con il fatto che la sessualità non è eterosessuali, omosessuali e bisessuali, ma è quel che sei, non è importante. Lui ha fatto solo film su persone con una sessualità particolare, strana. E anche in questo film, il fatto che lui si travesta. È un eterosessuale, non ha cos'è. Però questo crea una strana dinamica, perché Massimo Boldi si innamorerà di questa badante, poi si scoprirà a un certo punto che questo era un uomo. Hai un po' l'idea che continuiamo tranquillamente a vedere. Sì, vediamoci comunque, rimaniamo in contatto. Proprio così. Bene, cioè, bene. È una cosa molto particolare. Loro hanno un figlio, un figlio che è gay e che ha il problema di essere gay. Ma è un problema solo per il figlio, perché i genitori sono tranquillissimi col fatto che lui sia gay. E alla fine lo accetterà, lo nasconde un po', poi lo accetta. Insomma, è un film veramente molto molto particolare. Io non dico ve lo consiglio, però insomma mi hai sorpreso, Vasquez, mi hai sorpreso. Ma questa è una trasmissione che sorprende. Lo fa questa trasmissione. Guarda i messaggi, abbiamo 7-5 mila messaggi. Va bene, insomma, un bel film, amici, come prima. Lo andrò a vedere al cine. Bravo. Come faccio sempre. Certo. O sulle piattaforme digitali. Quando escono per le piattaforme digitali. Certo. Ovviamente, perché delle volte gli altri si vedono un po' male, passa la gente davanti, l'audio va giù, la telecamera si fa così. Insomma, un po' un casino. Comunque, mi dicevi, un bel film. Un bel film. Poi, questa settimana, insomma, facciamolo magari anche un pochino più in fretta, perché questo era il qua. Insomma, questa settimana esce un film bellissimo, che tu non ti guarderai mai, ma che a me è piaciuto da impazzire, l'ho visto al Festival di Cannes, si chiama Cold War. È un film su queste due persone che vanno da una parte e l'altra della cortina di ferro durante gli anni 50 e 60, partono dalla Polonia, sono due che si innamorano in Polonia, lei canta in un in questa specie di compagnia che fa canti popolari tradizionali, sai, quelle cose da regime comunista. Bene, no? La grande tradizione, così. Esatto. Che cos'è, e lui è rock, via! E lui è il direttore d'orchestra, si innamorano, hanno questa storia, poi lui è un po' come se tradisse, perché va, scappa. Supera la cortina di ferro, va in America. Lo sparano? E diventa un direttore di big band jazz molto quotato. Lei a un certo punto, anche lei scappa per raggiungerlo, diventa una cantante molto quotata. Però poi ci sarà tutto un movimento, smetto di raccontare la trama, ci sarà anche un movimento per cui si troveranno a dover tornare di nuovo dall'altra parte. Insomma, è questo viaggio nella musica, prima popolare, poi molto moderna. E ci sono delle cose, ti dico, mi hanno impressionato, perché loro ricostruiscono le immagini di quel cinema di quegli anni, per cui a un certo punto, quando loro sono in America, in un club jazz, che suonano la roba, il cool jazz degli anni 50, le inquadrature sono esattamente quelle del cinema americano degli anni 50, ed è perfetto, e in una quindi scena... lo hanno studiato anche. Ma porca miseria... a me la musica popolare folcloristica in linea di massima non piace, non sono fatta così. Figuriamoci i canti popolari polacchi, proprio niente, non mi piacciono, e tant'è che poi nel film, quando li sento, non mi piacciono. Però... in una scena c'è lei, che è bellissima, vestita in abito tradizionale, e sta nella campagna polacca d'estate, quindi grande sole, che canta questa canzone, e lì in quel momento, lei è nel fiume che fa il morto a galla e canta, e tra la voce bellissima, questa musica, quei luoghi, quei posti, l'ho capito, cioè ho capito quella musica, e lì quello era bello, in quel momento era bella. Senti, è un poeta, un animo sensibile. Un animo sensibile. Fine dicitore. Ma... insomma, comunque, il film è bellissimo, si chiama Cold War, veramente. Mentre veramente Bohemian bello. Rhapsody è ancora al primo posto nella classifica. Bohemian Rhapsody, te lo dico, finisce come il record in cassi dell'annata, te lo dico. Ma perché no, sta a 15 milioni. 15 milioni. Allora, il record di quest'anno, cioè del 2017, nel 2018, è Avengers con 18, mi sa. Attenzione, adesso faccio subito un controllo, perché potrebbe batterlo in zona Cesarini, nelle ultime date dell'annata. Vediamo subito quanto ha fatto Avengers. Ha fatto 18 e questo sta a 15. Quindi è vicinissimo. È quasi sicuro, secondo me, che ce la fa entro fine anno. Anzi, sta a 16. Che dico 15? Sta a 16. Sì, è praticamente superato. Entro fine anno lo supererà. E diventerà il maggior incasso dell'annata. Pensate. Ma Siani non fa film? È fermo. Non so perché, ma è fermo. Mentre l'anno prossimo dovrebbe tornare Checco Zalone, sembra. Dovrebbe poi. Anche lo vuoi vedere che anche Siani fa il film? Beh, sarebbe proprio andarsi a scontrare loro due. O uno dei due cambia data, Siani, perché chiaramente no, nessuno si mette contro Zalone. Dovrebbe cambiare data, non so quanto gli convenga, però boh, vediamo. Di certo c'è Medusa, che sono quelli che distribuiscono e producono Zalone. Anzi no, non producono, distribuiscono Zalone, che ogni anno si giocano questa. Cioè ogni anno loro dicono, l'anno prossimo usciamo con Zalone, eh. Ogni santo anno, poi non è vero, perché poi, di fatto non è successo. Che cosa? Medusa ogni anno dice: noi usciamo con Zalone l'anno prossimo, eh? E regolarmente non è vero, perché non succede. Tu pensa una coppiata Siani-Zalone. Beh, ma più di quello che ha fatto Zalone, cioè più di quello non si può fare. Cioè, poi raggiungiamo il tetto della popolazione italiana, no? Più di tanto non puoi andare. Quanto ha fatto? 50 milioni? 56. 56, record assoluto. 56, se dividi per 6, perché il costo medio del biglietto, più o meno sono 10 milioni di esseri viventi che sono andati al cinema. Porco cazzo. Tu immagina Siani, che sono quelli, i due che adesso, no? Sono sì, Siani chiaramente è molto indietro. Siani da solo fa 16 milioni, che è quanto Bohemian Rhapsody, che è tantissimo, eh? Però rispetto a Zalone, cioè... E l'ultimo film quanto ha fatto? 16. No, Zalone, lui. Zalone 56. Con l'ultimo? Quello, il record dei record, sì, 56. Porco caneo. Quando era? 3 anni fa? Tre anni fa, infatti lui ha detto, sto per 4 anni... Mi fermo, cioè torno tra 4 anni, ed infatti l'anno prossimo dovrebbe esserci. E ti dirò di più, il giorno più bello del mondo uscirà nel 2019 di Siani. Sì, ma non a Capodanno, per forza. No, beh, probabilmente uscirà. Beh no, perché Capodanno sarebbe 2020. Ottobre. Sì, ottobre. O sotto Natale. Bah, è difficile, voglio vedere, è difficile. E lo farà anche come regista, penso. Questo lo fa anche Zalone. Ma sono sempre, sono degli errori clamorosi questi, però vabbè. No. È molto complicato spiegare a queste persone che è un errore grandissimo, perché vedono tutti che lo fanno. Troisi lo faceva, Verdone lo fa, Pieraccioni lo fa, questo chiaramente crea la voglia di, ma è un errore grandissimo. Perché invece queste persone nelle mani di uno bravo rendono ancora di più, però vabbè. Però, aspetta, però, attenzione, lui l'ha fatto con Il Principe Abusivo, Si Accettano Miracoli, Mister Felicità, cioè l'ha fatto però... Cioè. Sì, sì, sono sempre bruttissimi. Però che ci devi fare? No, anche Tiraccioni, sì, anche Tiraccioni ha fatto dei grandissimi successi da regista, ma fanno schifo. Mentre invece questi, che hanno poi, sono bravi ovviamente, non è che sono degli incapaci. Nelle mani di un regista capace, un regista di commedia vera capace, era quello che si faceva una volta. Totò mica si dirigeva i film, faceva gente molto capace, no? Monicelli lavorava con Aldo Fabrizi, lavorava con questa gente qua, ma dirigeva lui. Cioè, certo. Però è un'altra epoca del cinema. Invece questa settimana esce un film che ti dovrebbe interessare molto. Oh, pronti. Il ritorno di Mary Poppins. Ma va. Questo è un'idea di remake che tu non hai avuto. Te lo voglio dire. Anzi, un'idea di sequel, scusami. Che tu non hai avuto. Il ritorno di Mary Poppins. Eppure sì, era lì. Ci sono i libri. No. Cioè, era pronto. Sì, vabbè, ho capito. Però è niente confronto a Young James Bond, Young 007. Intanto loro l'hanno fatto, no? Pochi, sì, sporchi e subito li, sì, prendono. Però faranno due lire. Pochi il film sarà, certo, abberciato, una bacionata. Cosa vuoi che importi alla gente di Mary Poppins? Figuriamoci, dai. Chi lo sai che è un film totalmente pro-Brexit? Io te lo dico. Ma io che leggo il film, no? Cioè, che tra le righe. Ma non mi fermo al primo livello. Certo. Cioè, io vado in profondità. Ovvio. Allora, ti dico, indizi che questo film è totalmente pro-Brexit, proprio per l'uscita della... Uno, c'è un inizio con lo spazzacamini che canta da solo. Canta un'altra canzone. Spazzacamini. Anzi, adesso ti prendo le parole di questa canzone. Cancamini, spazzacamini. Adesso tutti spegneranno la radio perché facciamo veramente schifo. Anche un po' pena. Allora, questo ci tengo a precisarlo, è una scena separata dal film. Nel senso che poi dopo questa scena ci saranno i titoli di testa e poi partirà la vera storia. Questa scena in cui lui canta, quindi non ha economia nella trama. Insomma, se uno la levasse nel film non cambia niente. Eppure racconta delle cose. Cioè, cosa dice? Cioè, il film è ambientato negli anni della crisi economica degli anni 30. Quindi c'è una crisi economica nel film. La Grande Depressione. Allora, le parole del... Ah, quella americana. Alcune delle parole di questa canzone sono: questa crisi se ne andrà, resisti un po', a Londra tira un'aria nuova. Ma dai. Prima o poi ne avremo prova. Ma che davvero? Questo è indizio numero uno. Indizio numero due. Nel film la storia è che i bambini dell'originale sono adulti e hanno dei bambini a loro volta. Quindi arriva Mary Poppins a badare a questi nuovi bambini. Cioè. Il problema del padre di famiglia è che sta per essere sfrattato di casa perché non ha ripagato un mutuo. No! Giuro! Giuro! Allora, non ha ripagato il mutuo e sta per essere sfrattato di casa. La banca, cattiva la banca, cattivissima! No, non gli concederanno, anzi gli darà un ultimatum: se non mi porti i soldi entro la mezzanotte. Ma quando mai la banca gli dice entro la mezzanotte? A mezzanotte, ma che so, non so, il direttore della banca dice anche: io sarò in ufficio fino alla mezzanotte per vedere se porterai i soldi. Lui però si sono accaniti contro di lui proprio. Alla fine, sì, ma veramente si sono perché accaniti. Perché ce l'avevano con lui, si sa. Perché lui è un vero inglese, quelle banche in Italia. Le banche cattive. Questa banca, perché lui è un direttore di banca giovane, moderno per gli anni 30, no? Questa banca, lui però è il protagonista, esatto, capito, con idee internazionali. Lui si accorgerà a un certo punto di avere le azioni di quella banca, quindi se lui la trova quelle azioni che hanno un valore, potrà ripagare tutto il film sarà troviamo queste azioni. Alla fine, in maniera rocambolesca, ne troverà, però arriverà lì all'ultimo minuto, però forse è l'azione strappata, forse non vale. E a questo punto, questa banca cattiva, che cos'è? Cosa succederà? Arriverà il vecchio... Ti ricordi nel primo, nell'originale, c'è il vecchissimo direttore di banca, anzianissimo! Sì, vagamente. Esatto. Che poi è lo stesso attore che fa lo spazzacamini, fa i due ruoli. Fa lo spazzacamino e fa questo vecchissimo. Mi chiedi troppo. L'attore si chiama Dick Van Dyke, immenso. Arriva, si apre una porta e arriva questo, arriva il vecchissimo che è ancora più vecchio e che è Dick Van Dyke veramente, ha 93 anni. Ma va! Sale sulla scrivania e balla a 93 anni. Balla in maniera controllata, però comunque balla. C'ha un sorriso tutti i denti finti, proprio che grida ma spettacolo americano degli anni 60. Una roba stupenda. Va bene. il vecchio direttore, cioè le vecchie regole tradizionali britanniche, il rigore di una volta britannico, metterà tutto a posto. Le banche non sono cattive, è questa nuova gestione che non ci va bene. Bravo, bravo, bravo. Questo è un film pro Brexit, adesso ve l'ho detto. Va bene, andiamo avanti. Vogliamo, ne parliamo la prossima settimana. No, io sono pronto a fare la classifica. Anche se abbiamo poco tempo, ma... Potevamo fare al 28. Se vuoi la facciamo il 28, a me va bene. Abbiamo poco tempo, quindi prendiamocela comoda, no? Ma sì, prendiamocela comoda. Ma sì, ma chi ce lo fa fare? Facciamola al 28. Allora, chiudiamo i film di questa settimana a questo punto, che ci sono due uscite interessanti, tre uscite interessanti. Vabbè, tre. Guarda, Allora, una è Capri Revolution, che è una follia tutta italiana, proprio quelle follie italiane. Capri Revolution è un film in costume ambientato a Capri nei primi del Novecento su un gruppo di hippie che si era stabilito là e convertono una pastorella. Allora, è chiaramente una roba che per i miei pastorella. Gusti... No, guarda, per i miei gusti è semplicemente intollerabile un film del genere. È una roba proprio... non ha nessun senso. Che cavolo è? E l'idea folle, totalmente, è di farlo uscire a Natale. Contro tutti questi film, cioè è una roba totalmente che non ha nessuno. È un'impresa senza senso questa. Io non so quanto, magari adesso mi sbaglio e farà un sacco di incasso, vediamo. A me sembra totalmente folle. Poi questo titolo Capri Revolution, che sposta ai primi del Novecento, perché c'era una forma di ippismo dei primi Novecento, la rivoluzione sessuale. C'erano i blues noir forse. Una follia. Non ho capito. Totale follia. E invece Bumblebee? Non l'ho visto. Non l'ho visto perché avevo delle interviste molto più importanti. Te lo dico. Chi? Boldi e De Sica, da cui ho scoperto che il film ha diretto il figlio. Ah. E arrivo qua fresco fresco con una news che i principali rotocalchi italiani si sognano. Invece, gli altri due film che mi stanno a cuore, diciamo, mi stanno a cuore. Sì. Sono Sette uomini a mollo. No, non mi sta a cuore. No. Non mi sta a cuore. No. Uno è Old Man and the Gun. Perché mi sta a cuore? Perché dichiaratamente... l'ultimo film di Robert Redford. Ha detto che si ritira. Basta, fa solo questo film. Solitamente, quando uno dice questo è il mio ultimo film, fa schifo. Questo è un grande classico. Invece Old Man and the Gun è molto bello. Ma che fa? Allora, è una storia vera di questo qui, questo uomo anziano che rapinava banche senza niente, con lo charme. Cioè lui entrava con un bel sorriso, un savoir-faire, andava dalla cassiera e diceva: questa è una rapina, io ho una pistola in tasca, ma non ce l'aveva. Diceva: però insomma, non ti preoccupare, metti con calma i soldi dentro, insomma, non c'è bisogno di affrettarsi. Insomma, instaurava delle piacevoli conversazioni e usciva coi soldi. Allora, questo film è molto complicato da fare, perché tu ci devi credere a fatto che questo, col potere dello charme, rapina, certo. Ma con Robert Redford, in effetti, regge da morire. Ed è un film molto buono. La cosa incredibile è che Robert Redford è un po' arrivato, nel senso che non parla molto, ha sempre la stessa espressione, però il film è fatto intorno a questa cosa e funziona bene. Cioè lui ha una sola espressione, però è quella giusta, è quella di cazzo quanto sono figo, sono Robert Redford. Ma quanti anni ha Robert Redford? Parecchio, adesso te lo dico. 80, 90, quanti ne ha? Beh, secondo me adesso a vederlo più di 80. Ma è uscito anche il film di Pieraccioni. Sì, ma io non l'ho visto. Se son rose. Non l'ho visto. Ma stavo come in... l'hai visto? Sono state due settimane impegnative. Ma come? 82 ma... anni ha. Ma come? 82? Sì. Mazza, beh, giovane però. Però sta un po' arrivato. Però la faccia del Robert Redford ce l'ha, la sa fare bene ancora. Insomma, in questo film, in cui c'è anche il poliziotto giovane, poi giovane, insomma, relativamente, che è Casey Affleck, che lo cerca... veramente, guardate, devo dire, mi ha molto conquistato. Io pensavo fosse uno di quei film in cui i vecchi dicono ma siamo ancora giovani, possiamo ancora fare, insomma, no, non è mai troppo tardi per... In realtà è un film che guarda un po' alla roba di Michael Mann, però senza azione, chiaramente, non è un film d'azione. Però cioè, a un certo punto c'è lui dice, io sono sempre evaso in tutta la mia vita. Perché chiaramente si crea una storia d'amore con una donna della sua età, e lei gli dice, basta, vai in galera, cioè fatti il carcere e poi uscirai. Vabbè, 80 anni il carcere non te lo danno più, dai. Sì, infatti gli danno poco, cioè, però fatelo, basta. Questa... Lui dice, io non mi sono mai fatto il carcere, sono sempre evaso. E c'è questo montaggio, no, negli anni, molto bello, con lui che evade. Chiaramente lui è sempre in controluce, no, perché è un attore giovane. Beh, certo. Tranne in una scena in cui è la caccia, un film che lui fece negli anni 60 con Marlon Brando, in cui lui effettivamente evade di prigione in quel film, ed è molto giovane, e quindi c'è questo montaggio, lui sempre di spalle, e poi a un certo punto invece lo vedi molto giovanissimo, e poi ricomincia altre scene di altre evasioni lungo gli anni. Ma insomma, è veramente un film che a me mi ha preso molto. C'ha un finale che non vi aspettate assolutamente. E per cui, cavolo, se ne esce di scena alla grande questo vecchio malandrino delle truffe. Good morning, c'è il babbo? No. Yolanda. Ma che domenica oggi? È la prima volta in 6 anni che ti vedo con una donna. È una mia amica, è venuta a trovarmi, ma ora va via. Te piace sempre i pazzi, eh? Ma tutte le tue altre fidanzate, che cosa avevano che non andava? Tornassi indietro, sarei più paziente, le saprei apprezzare. Ora sono cambiato. Pronto, nonna? Tu ti ricordi i nomi delle fidanzate del babbo? Le voglio tutte. Yolanda vorrebbe che tu ti completassi con l'amore con la A maiuscola. Cosa t'ha detto il cervello di mandare un messaggino a tutte le mie ex? Voglio un selfie per ogni incontro. Vieni, vieni, entra! Ed ecco qui davanti a voi il prototipo dell'uomo ritornante. Signore, io lo so che ci sei. Hai visto che c'era una battuta in cui lui diceva tutta la trama del film? Perché hai mandato un sms a tutte le mie ex? Sì, sì, sì. Ma poi due coglioni infiniti. La prima volta che si è fatto l'amore era anche la prima volta per tutte e due si faceva l'amore. No, io la prima volta lo feci coi Burgassi. E poi mentre si stava insieme col Bencivegni. Però pure lui esce a Natale, dai. Boh, ci prova? Ci prova, ma secondo me non ci riesce. Non ce la fa, eh. No, è finita la sua epoca. Beh, li ha fatti però i film. Assolutamente. Ha fatto i numeroni pure. Assolutamente, onore al merito. Ultimo film che esce questa settimana, che a me sta a cuore, perché cavolo sei un bel film, è proprio un bel film, di quelli che non si fanno più, perché per una serie di meccanismi che qui in questa trasmissione, che è la più importante in assoluto, abbiamo raccontato molte volte, il film da medio budget, cioè quello che non è piccolo e di nicchia, ma non è neanche il grandissimo film gigante, quello medio, magari con una star, cos'è, non si fanno più. Perché è cambiata l'industria, si sono trasferiti sulle piattaforme, sono diventati magari serie TV, cioè proprio un'altra cosa. Questo qui si chiama Ben Is Back ed è quel classico film che non si fa più. Scritto bene, interpretato alla grande, girato bene, con una trama molto adulta, di medio budget. C'è Julia Roberts che ha vissuto un'annata fenomenale, cioè ha messo a segno sia questo Ben Is Back, che è bellissimo, che Homecoming, che è una serie TV che sta su Amazon Prime, in cui lei è molto forte. Ma che fa? Io non l'ho visto questa cosa. Homecoming? È una roba di spionaggio. No, spionaggio di servizi segreti, più corretto. Devo vederla. Insomma, in Ben Is Back, lei veramente regge alla grande un film in cui c'è anche un sacco di altri attori brani. Si svolge tutto in una giornata. È la giornata in cui, nella vita di questa famiglia, molto borghese, molto tranquilla, una famiglia americana normale, in cui lei è la madre, torna Ben. Ben è il figlio più grande. Figlio di primo letto, tra l'altro, quindi il nuovo marito, cioè non è suo padre, il figlio più grande torna dalla comunità, perché stava in comunità di recupero, perché si drogava male, noi capiamo subito che si drogava male, perché quando la famiglia lo vede non è felice, cioè la famiglia lo vede tornare ed è un grosso problema subito per tutti, tranne per la madre, che è la madre, chiaramente, e piano piano, mentre andiamo avanti nel film... mentre andiamo avanti nel film capiamo che lui veramente ne aveva fatte di tutto, cioè veramente ha avuto dei problemi grandi, ha fatto delle cose allucinanti quando si faceva di droga male. In questa giornata lui subito qui nel paesino, in questa cittadina di provincia, tutti si rendono conto che lui è tornato e cominciano i vecchi creditori, quelli che lui ha fatto, e lui c'ha tipo 20 anni, cioè non è che ce n'ha 40, capito? E comincia questa roba allucinante per cui in famiglia tutti tranne la madre sono un po', ma siamo sicuri? Ma non è che vuoi tornare in comunità? Ma se siamo sicuri? Non è che finisce come l'ultima volta e non ti dicono che è successo? La madre è spaventata, però no, facciamola funzionare questa cosa. E cominciano a accadere cose strane. A un certo punto vanno alla recita delle bambine, delle sorelle piccole, tornano a casa, qualcuno è entrato in casa e ha rapito il cane. Lui sa chi è stato. No, lui dice, è sicuro perché per me, cioè è un messaggio per me, sicuro. Perché il cane era importante per me, eccetera, eccetera, perché mi vogliono... E lui decide autonomamente che questo fatto di andare a riprendere il cane sarà la cosa che... Sono cambiato e ve lo dimostrerò. Io lo ritroverò, questo cazzo di cane. Lo riprenderò. Nella notte di Natale, tutto questo, nella notte di Natale, tornando in mezzo agli spacciatori con il rischio che ricominci a farsi. La madre, che è una signora per bene con la borsetta, cioè Julia Roberts, parte all'inseguimento del figlio, perché lei non ci sta. Che e va in mezzo ad assicurare lei, pure i tossiconi, ma e si fa pure lei. No, ma no, comincia a fare delle cose che una signora bene solitamente non fa, ma per la disperazione, cioè allunga i soldi ai drogati fase terminale, che quindi moriranno con questa overdose che si fanno con i soldi suoi, per sapere dove sta il figlio. Fa delle cose allucinanti, però vi dico, è un gran film, scritto bene, interpretato alla grande, cioè... E mi ha tenuto veramente attaccato. E con un finalone anche questo. Beh, diciamolo il finale. Vasquez, vabbè, ci vediamo venerdì prossimo. Ci vediamo venerdì prossimo. Ci sarai, tanto. Una grande classifica. Festival non ci sono, perché non ci sono i festival. Guarda, pur di scappare alle feste in famiglia, questo è altro. Sì, Vorresti venire qui il 25 mattina? Io ci sono. Sai perché non posso? C'è il pupo? Perché questa volta, per la prima volta, c'è la Natale bambola, quella brutta. Il Natale in famiglia è a casa mia. Ah. E quindi sono coinvolto nelle incredibili preparazioni. Esco un attimo a prendere le sigarette. Ci vediamo tra un po'. Cavolo, ci venivo. Però niente, no, se mi assento nella fase cruciale delle preparazioni, posso anche non tornare più, tranquillamente. Mi dicono, ma Mario Draghi c'è come Dick Van Dyke. Va bene, Vasquez, peccato, non ci sei il 20. Però il 29 sì. Venerdì? Poi sì. Andiamo tutti. Adesso non mi ricordo qual è la data, però venerdì. Poi sì. Andiamo tutti quanti a cena. Attenzione. Tutta la radio. Mi sa che non è cena. Il 29 comunque, venerdì, eh? No, 28. Venerdì è 28. Venerdì. 28. Venerdì è 28. Il 29. Il 29 è tutta da vedere, perché. Devo chiedere. E chiedere a chi? La mia segretaria che tiene i miei impegni. Sì, secondo me al padrone che è a casa, no, e che ti ha detto. La mia segretaria che tiene i miei impegni. Io guarda, poi mi fido che lei lo qualcuno dice. Mi ha scritto e mi ha mandato la foto della bambola. E io ho detto no, quella è la bambola brutta, cattiva. Va bene, grazie Vasquez. Allora, venerdì prossimo. È un piacere.